grazie Enzo. Ernesto, dica, fatto? Sì, ho fatto. La ringrazio. E io voglio capire cosa vuole che le dica. Non si capisce, io non l'ho capita, che devo fare? Sarò ritardato. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, alle 18:37 minuti, 800 24 00 24, il numero per chiamarci in diretta, ve lo ripeto, 800 24 00 24, 349 238 6666 per i vostri messaggi, le mail alla zanzara@radio24.it. Primo TG della sera, sentiamo come affronta i fatti del giorno il TG2. Borse, una drammatica altalena, tutte di nuovo a picco, non basta il taglio delle banche centrali del costo del denaro, manovra senza precedenti, bruciati altri 340 miliardi di euro. Vertice al Ministero dell'Economia con Tremonti, Banca Italia, Banca e Confindustria. Questa sera Consiglio dei Ministri straordinario per misure urgenti, domani il Governo alla Camera. Le immagini della tragedia in Nepal, nella regione dell'Everest, un aereo si schianta al suolo e prende fuoco, 18 i morti, 14 turisti, nessun italiano. Rifugio di spacciatori e tossicodipendenti, la nostra troupe in un hotel abbandonato nel Casertano, il racconto disperato di italiani emigrati clandestini, la vita ci ha abbandonato. Le prime immagini dalla Germania dell'uomo a cui 3 mesi fa sono state trapiantate le braccia, una gioia indescrivibile, ogni giorno le muovo meglio. Questo è il TG2. Qualche volta la politica è strana e le cose che possono sembrare impossibili si avverano. Per esempio, il leader della regione Sicilia, la regione Sicilia così dissestata, così messa male per quello che riguarda il bilancio, vuole dimezzare la paga dei politici. Cioè vuole eliminare i gettoni di presenza, anzi vuole introdurre i gettoni di presenza per gli eletti di province, comuni e quartieri. Saranno ridimensionati, pare, un disegno di legge che deve passare all'Assemblea regionale, anche i componenti delle giunte, e l'assessore Scoma dice: temo più qualche alleato durante le votazioni che l'opposizione. Il PD potrebbe addirittura votare a favore. Insomma, Lombardo come il grande moralizzatore, così lo presentano oggi i giornali, poi bisognerà vedere naturalmente nella pratica se sarà così, il grande moralizzatore della Sicilia, almeno per quello che riguarda le paghe dei politici. Sentiamo Studio Aperto. Un'altra giornata da dimenticare sui mercati di tutto il mondo. Tra meno di 2 ore Consiglio dei Ministri straordinario. Il governo varerà un decreto legge che dovrebbe garantire fino all'ultimo euro depositato sui conti correnti. Borse sul lotto volante. Non serve il timido taglio del tasso di sconto della Banca Centrale Europea. Milano chiude a meno 5,2% per il Fondo Monetario. È la peggiore crisi dal 1930. Delitto di Garlasco. La Procura di Vigevano ha notificato poco fa l'avviso della chiusura delle indagini sull'omicidio di Chiara. Ora i legali di Alberto Stasi, unico indagato per il delitto della fidanzata, hanno 20 giorni di tempo per presentare altri elementi e chiedere un nuovo interrogatorio. Dai reperti del caso Reggiani non è possibile ricavare il DNA dell'accusato, lo ha detto la polizia scientifica durante l'udienza del processo contro Mailat, imputato per il massacro di Tor di Quinto. La difesa: potrebbero essere stati in 4 o 5, non ci sono prove materiali contro il romeno. Oggi avrebbe festeggiato il 29esimo compleanno, si è uccisa mentre i genitori dormivano. La vittima, una studentessa di Treviso, soffriva da tempo di anoressia. Ha lasciato un biglietto: per voi sono solo un problema. La psicologa. Bene, questi ragazzi, i titoli di fronte a notizie così complicate, usiamo questo termine, sul piano finanziario, sulle borse, come avete sentito durante Focus Economia, divertiamoci un po', perché le Iene sono tornate a fare uno scherzetto, questa volta ai neodeputati, per vedere, per tastare il polso della loro preparazione. Allora, sentiamo la performance di Giuseppe Angeli, che è un chietino ed è del PDL, a proposito del Dalai Lama. Lo conosce? Sa chi è? Sentiamo. Potrebbe essere il Dalai Lama, no? Dalai Lama. Dalai Lama. Mi dispiace. C'è la foto? Ho capito. Chi le sembra vestito così? Io veramente non ne manco posso dare un'opinione. No. nemmeno con la foto riesce a riconoscere il Dalai Lama. Un po' a sorpresa, sempre sul Dalai Lama cade Pancio Pardi, Italia dei Valori. Dalai Lama, cittadino onorario. Chi è il Dalai Lama? Io il capo della religione, oddio, ora... Ecco, il capo della religione... Della religione... non me lo ricordo più. Che religione può essere il Dalai Lama? Devo andare dentro. Sì, ma che religione può essere il Dalai Lama? La butti là. Tipo indù. Indù, è di tipo indù. E Pardi scappa, entra dentro il Senato. Vincenzo Antonio Fontana, PDL, su Abu Mazen, leader palestinese. Abu Mazen vedrà Bush alla Casa Bianca, no? Abu Mazen. Abu Mazen è l'iraniano. L'iraniano, detto perché l'iraniano? Perché è il capo dell'Iran. Sicuro? Abu Mazen, no? No, del... Aspetta. Israeliano. Israeliano. Invece Olmert? Olmert è il palestinese. È il palestinese. E va bene, Olmert palestinese, Abu Mazen israeliano. Qualche volta, poi in realtà vedendo il video, vedendo il servizio in diretta, uno può pensare che sia una presa in giro, poi vedendo, dicevo, il video in diretta, in realtà queste persone sono serissime. Spoglia, PDL, su una serie di cose, Gomorra, eccetera. Gomorra verso l'Oscar, una notizia di questi tempi, no? Ecco, che cos'è Gomorra per i ragazzi? Vabbè, Gomorra è una città antica della Babilonia. Gomorra è una città della Babilonia, ma che... Posso rispondere anche bene, poi lei la taglia l'intervista. No. Olmert si dimette, ma la Livni ha già dei rivali. Ecco, chi sono Olmert e la Livni? Sono dei politici inglesi. Inglesi? Perché mi deve far parlare anche dell'Inghilterra, che non mi interessa? Non le interessa, ma Olmert chi può essere dell'Inghilterra? Un personaggio famoso? Un premier? No, il premier non è... Il premier chi è, quello inglese? Gordon Brown. Sono preparato. E Olmer chi può essere? È il capo del partito dei laboristi. Hai visto che l'ho risposto bene anche un'altra volta? Allora, se vogliamo continuare così, fin quando non mi prendo in castagna, ci divertiamo tutta la giornata, probabilmente sono più intelligente di quello che lei pensa. Eh beh, certo, soprattutto sulla conoscenza dei politici inglesi, però sempre sullo stesso piano, diciamo la verità, è tornato a parlare di cose di attualità il leader del Partito dei Comunisti Italiani, Oliviero Di Liberto, che era un po' scomparso. Abbiamo recuperato questa sua preziosa analisi sulla crisi attuale. Dice è la dimostrazione della truffa del capitalismo. Di Liberto. Questa drammatica crisi finanziaria dimostra una cosa semplice, cioè che il capitalismo è una gigantesca truffa e adesso vogliono ripianare i disastri delle banche con i soldi dello Stato, cioè i soldi di tutti noi. Beh, io credo che se si vogliono mettere i soldi dello Stato, le banche devono essere nazionalizzate, cioè diventare dello Stato. Perché stiamo assistendo davvero a un fenomeno che conferma drammaticamente la vecchia profezia di Bertolt Brecht, e cioè che è più criminale fondare una banca che svaligiarla. Eccoci qui, 18:47, 800 24 00 24 per chiamarci. Abbiamo già degli ascoltatori in linea, però vi faccio ascoltare quello che tempo fa disse l'onorevole Guzzanti a proposito di Berlusconi. Era un'imitazione, direi perfetta, di un suo intervento a un'assemblea dei deputati, dei senatori del PDL. In questo modo l'onorevole Guzzanti descrisse l'intervento di Berlusconi. Un giorno eravamo riuniti, il gruppo parlamentare della Camera a Montecitorio, dove il Presidente del Consiglio, e qua a un certo punto ha detto: e poi ho parlato con Putin, il grande Vladimir, il grande... gelo in sala, ma come il grande Vladimir? Cioè, è una cosa veramente molto imbarazzante. Io voglio dirlo, io mi sento molto imbarazzato. Ora, pare che Berlusconi, e saluto e ringrazio l'onorevole Guzzanti per essere con noi, buonasera. Salve, buonasera. Quella era una sua intervista a Radio Radicale, che noi abbiamo mandato molto, perché insomma ci divertiva la sua imitazione di Berlusconi, però il discorso è serio, non è assolutamente ironico, né c'è da ridere, naturalmente. parte, perché riguarda la politica internazionale, la Georgia, la Russia, quello che è successo e anche i rapporti personali di Berlusconi con Putin. Pare che Berlusconi abbia replicato questa sua performance o comunque questi suoi racconti sulla vicenda georgiana. Lo ha fatto oggi o ieri, non so esattamente, anzi ieri sera con il gruppo del PDL alla Camera. Lei addirittura oggi sul suo blog scrive: ha assolto Putin come fecero con Hitler, addirittura. Beh, questa è un'estrema sintesi che non va bene. No, intanto, sintesi dell'ANSA, sintesi intanto dell'ANSA. Ieri sera no, io ho detto che assistere oggi a queste coperture di Putin, il quale ha invaso uno Stato europeo, non so se ci rendiamo conto, la storia della Georgia, la storia di uno Stato europeo come la Russia, che invade uno Stato europeo come la Georgia. Sarebbe come se, non so, la Francia avesse invaso il Belgio o la Germania avesse invaso la Svizzera. Anche, ma, se c'è una controversia, apro una parentesi, su chi abbia iniziato per primo. Comunque, insomma, No, ma lì non c'è nessuna controversia, perché da Stato a Stato certamente ha cominciato la Russia. Sì, c'erano controversie su due regioni che si sono autoproclamate indipendenti senza nessun appoggio internazionale, quindi con un atto di assoluta unilateralità, ma comunque lo si voglia considerare. E poi la guerra è stata lungamente preparata. Se adesso però il punto non è questo. Il punto è, diciamo, l'amicizia che io considero poco decente del nostro presidente del Consiglio con Putin, non per da un punto di vista di Stato a Stato, perché la realpolitik, la ragione politica, il fatto che bisogna fra grandi della terra discutere e dialogare, questa è una cosa assolutamente banale, ma Berlusconi da parecchio tempo copre, facendo sue le bugie di Putin, le malefatte di Putin. Ora, nel caso di ieri, perché non è che Berlusconi ieri ha replicato a quella mia performance, ieri sera Berlusconi ha fatto questa grande riunione dei deputati del Partito della Libertà nella sala del Mappamondo. Ma io volevo dire che non è che ha replicato a lei, ha replicato, no, nel senso è tornato su a parlare di questa vicenda, dicevo. Ha fatto una carrellata panoramica su tutta l'azione del suo governo, dicendo tutte cose sulle quali io per lo più condivido, che sono Napoli, l'Italia, eccetera, eccetera. E poi ha detto la politica estera. È arrivato sulla politica estera, non si è limitato a dire che, ne so, che lui aveva svolto un'opera salutare di mediazione, di comprensione. Sì, cose normali di realpolitik, insomma. Esatto, ma invece ha raccontato la storia del povero Putin, che stava tanto tranquillo a Pechino. Poi lo hanno chiamato e è andato in Ossetia e lì ha visto una quantità di cose terrificanti, donne maciullate, altre stuprate, case in fiamme, e il povero Putin non è rimasto altro che prendere dei carri armati e mandarli ha detto testualmente, a cercare quello là, quel Saddam là, che è ovviamente il presidente Saakashvili. Cioè Berlusconi ha paragonato il presidente di Georgia, esatto, a Saddam Hussein. Un bandito internazionale come era Saddam Hussein, il quale Saddam Hussein era un bandito internazionale perché ha usato i gas contro i curdi, ne ha ammazzati a migliaia, ha scatenato una guerra sanguinosa e illegale contro l'Iran con 1 milione di morti, ha preso il Kuwait. Non è il caso di Saakashvili, insomma. In ogni caso, pensiamo, Saakashvili è un presidente democratico eletto in un paese democratico di recente democrazia, di recente rientro alla libertà, come del resto gli stati baltici, l'Ucraina, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Repubblica Slovacca. Comunque, adesso, a prescindere da questo, il paragone è chiaramente, non senza bisogno di spiegare che cos'è la Georgia, il paragone è chiaramente improponibile, quello tra Saakashvili e Saddam Hussein. Ma, assolutamente, l'ho trovato anche molto immorale, insomma, l'ho trovato indecente e per di più raccontato come fa Berlusconi, che è un narratore molto efficace, molto teatrale, raccontato come se fosse una cosa quasi buffa, insomma, per cui bravo Putin ha fatto, ha cercato di fare quello che chiunque avrebbe fatto, cioè ha preso e è andato lì a cercare questo Saddam che provocava tutte queste cose, con un'improntitudine. Io ho seguito la crisi georgiana, figuriamoci se non l'avrà fatto lui, che è il Presidente del Consiglio, che si avvale di tutte le informazioni possibili, ma è la copertura morale, personale, nei confronti di una persona come Putin, che oggi è discussa da tutti, perché tutti hanno pensato all'inizio che Putin fosse la speranza della nuova democrazia russa, me compreso. Ecco, a proposito di democrazia, ha detto anche qualcosa, mi sembra, ho letto nel suo blog, a proposito della Russia, non è ancora una democrazia, cosa ha detto esattamente? Sì, ha detto, poi del resto sappiamo tutti che la democrazia russa è ancora un po' così, come dire, non proprio perfetta, ma d'altra parte quando si esce dal totalitarismo occorre del tempo. Anche questo è un giudizio storico, per carità, ma sbagliatissimo. Tutti gli stati ex sovietici sono passati immediatamente alla democrazia, altri stati che sono passati dal fascismo come la Spagna o come il Cile, dalle dittature militari alla democrazia, sono passati alla democrazia immediatamente. In Russia oggi tutti i giornalisti di opposizione sono stati tutti ammazzati. Io nel mio blog ho fatto l'elenco, è un elenco impressionante, non è soltanto Anna Politkovskaya, di cui ieri ricorreva il secondo anniversario della morte. Senta, le persone, gli altri deputati, come reagivano a queste cose di Berlusconi? Ma guardi, alcuni, soltanto alcuni come me, soffrivano e davano segni di grandissimo fastidio. Altri, secondo me, non sanno un accidente, proprio lo ignorano e non facevano che dire bene, bravo, viva, osannare il capo. Però so anche, lo vedo, che coloro i quali sono preoccupati sono sempre di più, e adesso ho ricevuto anche delle telefonate da senatori, non dirò i nomi perché ormai io sono un appestato di qualsiasi nome possa fare. Ma con Berlusconi lei non ci parla più? Ma più che altro è lui che non parla più con me, perché io l'ho cercato molte volte, ma già da tempo evidentemente io credo che lui abbia tutto sommato dato fastidio proprio alla mia inchiesta Mitrokhin, che ha dimostrato che il KGB nuovo, non è questione di vecchie spie sovietiche, ma anche il KGB nuovo è attivissimo, cosa che sapevano bene i nostri servizi segreti, quelli americani e quelli inglesi. Quindi tutto ciò mi ha messo, senza che io lo volessi, su una rotta di collisione, perché nel frattempo lui invece diventava il grande sponsor, super amico e quello che copre anche moralmente un uomo come Putin. Va bene, io la ringrazio molto. Quando vogliamo parlare di cose russe, lei ha sempre questo microfono, microfono disponibile. Volentieri. Grazie, a presto. Grazie, grazie. TG3. Per la prima volta tutte le banche centrali riducono di mezzo punto il costo del denaro, ma non basta, borsa ancora picco, Milano meno 5,7. Per il Fondo Monetario si tratta della crisi più grave dal 1930, frena l'economia mondiale, per l'Italia recessione. Riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri, sarà estesa la garanzia pubblica sui conti correnti, allo studio un fondo per le banche. Veltroni pronti a dare una mano per uscire dalla crisi, salvaguardare anzitutto i redditi minori e le piccole e medie imprese. Nuovo appello del Papa, accogliere rifugiati e profughi, sbarco record a Lampedusa, permesso a punti e scontro sulla proposta della Lega. Il presidente ucraino Yushchenko al TG3, il Caucaso è un problema di cui l'Europa deve farsi carico, grazie all'Italia che dà lavoro a tanti ucraini. A pochi giorni dalle elezioni esce in America W, il film su Bush di Oliver Stone, grazie a lui rischiamo la guerra perpetua, dice il regista. Molto significativa la testimonianza pubblicata oggi integralmente dal Sole 24 Ore di Richard Dick Fuld, il banchiere che per 14 anni è stato al timone della banca Lehman Brothers. Testimonianza davanti al Parlamento americano. Non le sembra di aver guadagnato troppo, visto che la banca è poi fallita, 100 milioni nel 2006, 100 milioni di dollari. Risponde Fuld: no, se si guarda alla media annuale, circa 60 milioni di dollari ero ampiamente nei parametri del settore. Poi il nostro comitato remunerazioni si è sempre preoccupato di garantire l'allineamento tra le retribuzioni dei manager e l'interesse degli azionisti. Ma chi nominava questo comitato? La domanda degli inquisitori, tra virgolette, del Parlamento americano. Oggi la nomina spetta al comitato governance, ma in passato avevo un ruolo importante. Sentiamo Sky TG24. Le banche centrali tagliano i tassi, ma non basta, borse mondiali a picco. Stasera Consiglio dei Ministri straordinario, probabili interventi urgenti. Il Fondo Monetario riduce le stime sull'Italia e lancia l'allarme recessione. L'appello del Papa, dobbiamo farci carico di rifugiati e profughi, sbarchi a Lampedusa. Eluana, la Corte d'Appello nega la richiesta di sospensione, ora la Cassazione. Casalinghe, squillo, blitz in falsi centri estetici a Torino, 4 arresti. USA 2008 per i sondaggi, Obama si aggiudica il secondo confronto TV con McCain. Nepal, un piccolo aereo precipita nella regione dell'Everest, 18 morti. Caucaso, iniziato il ritiro russo dai territori georgiani occupati in agosto. Lotta alla SLA stasera a Firenze e in diretta su Sky la partita per Borgonovo. Eccoci qui alle 19.22, 800 24 00 24, nuovo capitolo delle Iene sui parlamentari ignoranti. Abbiamo fatto ascoltare prima qualche performance, proseguiamo naturalmente, riproponiamo. Partiamo adesso con De Pasquale, Partito Democratico, e Lara Pacis. Lara Pacis, che cos'è Lara Pacis? Lara Pacis a Roma è stata costruita ai tempi degli imperatori romani e ci facevano dei sacrifici. Per... Sacrifici nell'Ara? Ci facevano dei sacrifici? No, cioè, no, era il mercato. Il mercato, Lara Pacis, no? Sì, sì. Angeli, fantastico, Angeli, PDL, Dalai Lama. Potrebbe essere il Dalai Lama, no? Dalai Lama. Dalai Lama. Mi dispiace. C'è la foto? Ho capito. Chi le sembra vestito così? Io veramente non ne manco, posso dare un'opinione. No. Eh no, certo, nemmeno con la foto riconosce Dalai Lama. Pardi, Italia dei Valori, sempre Dalai Lama. A sorpresa, cade anche Pardi. Dalai Lama, cittadino onorario. Chi è il Dalai Lama? Io, il capo della religione. Oddio, ora. Che cos'è? Il capo della religione. Non me lo ricordo più. Che religione può essere il Dalai Lama? Devo andare dentro. Sì, ma che religione può essere Dalai Lama? La Bodhisattva. Tipo indù. Indù. È di tipo indù. Di tipo indù, certamente. Pardi che fugge dentro il Senato. Fontana, PDL, Abu Mazen. Abu Mazen vedrà Bush alla Casa Bianca, no? Abu Mazen. Abu Mazen è l'iraniano. L'iraniano. Detto, perché l'iraniano? Perché è il capo dell'Iran. Sicuro? Abu Mazen? Abu Mazen, no? No, del... Aspetta. Israeliano. Israeliano. Invece Olmert? Olmert è il palestinese. È il palestinese. E per concludere, Bratti, PD sulla Georgia e la Russia. Medvedev è stata la NATO a provocare il conflitto. Ecco Medvedev. Chi è Medvedev? Presidente della Georgia. Della Georgia. E Putin? È l'ex presidente della Russia. E Medvedev? È stato il presidente della Cecenia. Riproviamo, Medvedev? Beh, l'unica cosa giusta in tutto questo è sicuramente l'ex presidente della Russia per quello che riguarda Putin. Va bene, a proposito di Georgia e di Russia, poco fa l'onorevole Guzzanti ai nostri microfoni sul fatto che Berlusconi ieri abbia difeso ancora una volta Putin in modo piuttosto vigoroso durante un'assemblea dei deputati del PDL, sentite. E l'ho trovato anche molto immorale, insomma, l'ho trovato indecente e per di più raccontato come fa Berlusconi, che è un narratore molto efficace, molto teatrale, raccontato come se fosse una cosa quasi buffa, insomma, per cui bravo Putin ha cercato di fare quello che chiunque avrebbe fatto, cioè ha preso e è andato lì a cercare questo Saddam che provocava tutte queste cose. Sì, ha detto, beh, poi del resto sappiamo tutti che la democrazia russa è ancora un po' così, come dire, non proprio perfetta, ma d'altra parte quando si esce dal totalitarismo occorre del tempo. Anche questo è un giudizio storico, per carità, ma sbagliatissimo. Soltanto alcuni, come me, soffrivano e davano segni di grandissimo fastidio. Altri, secondo me, non sanno un accidente, proprio lo ignorano e non facevano che dire bene, bravo, viva, osannare il capo. Però so anche, lo vedo, che coloro i quali sono preoccupati sono sempre di più. Nel suo blog Guzzanti scrive: assolve Putin, Berlusconi, come fecero con Hitler. Io, mentre la gente applaudiva, vomitavo. A proposito invece della crisi, i mercati, eccetera, eccetera, sembra che qualcosa si stia muovendo tra maggioranza e opposizione. Veltroni oggi ha detto: siamo disponibili a partecipare ad un piano, comunque a collaborare con il governo. C'è una riunione questa sera del Consiglio dei Ministri, una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri. Certo che ieri l'atmosfera ancora era di un certo tipo. Sentiamo Veltroni a Ballarò. È chiaro che se Berlusconi mi dice: guarda, c'è una situazione finanziaria drammatica e non c'è bisogno. Ora ne di parleremo. No, ma le voglio dire una cosa importante. Se il governo dice c'è bisogno di un concorso dell'opposizione per salvare, mantenendo i ruoli, senza confusioni e senza... Io sono ovviamente disposto a farlo. Ma Di Pietro le direbbe: perché vai di nuovo, guarda, ti quello che cadi dice nel trappolone. Quello che dice Di Pietro lo ascolto con interesse, perché ascolto con interesse tutti. Però lo dice Di Pietro, che ne dice una oggi e dice il contrario domani mattina e il contrario tra due giorni. Quindi non mi fa, diciamo, nessuna impressione, nessun effetto. E qui una critica a Di Pietro, non si era sentita negli ultimi giorni. Però a un certo punto arriva la notizia che Berlusconi, uscendo da una riunione, pronuncia delle frasi: me ne frego della collaborazione col PD. Poi in realtà Berlusconi le corregge queste frasi. E sentite la reazione di Veltroni. E Veltroni: Berlusconi non si cura, dice l'Aggi, delle aperture del leader del PD Walter Veltroni sulla crisi del sistema bancario. Ai giornalisti che lo avvicinano all'uscita di Montecitorio e gli chiedono di Veltroni, Berlusconi risponde secco: non me ne frega niente. Cosa le devo dire? No, serve come giusta conclusione di questa discussione, guardi. Poi ci si spiega tante cose. Lei mi dica in quale paese del mondo il Presidente del Consiglio si rivolge nei confronti del leader dell'opposizione, il quale peraltro aveva detto una cosa ispirata... Bene, questa è la cronistoria di quello che è accaduto ieri sera. Poi oggi Veltroni ha fatto un'altra apertura verso il governo: collaboriamo insieme, vedremo, è più che mai necessario. In questo caso succede dappertutto mettere da parte le polemiche. Eccoci qui, gentili ascoltatori, alle 19.34, subito la parola ai vostri interventi, 800 24 00 24. Andiamo subito a Roma. Gianluca, buonasera. Buonasera. Prego. Salve, vorrei fare un ragionamento sul servizio delle Iene. L'ignoranza spaventosa di questi onorevoli, questi deputati, che secondo me è figlia della legge elettorale con le liste bloccate, che prevede... Guardi, la sento malissimo, Gianluca, la richiamiamo. Comunque, se non ho capito male, la sentiamo malissimo, la dobbiamo richiamare perché la linea è disturbata. Se non ho capito male, secondo lei l'ignoranza, diciamo, degli uomini politici dimostrata in parte, perché è un piccolo campione, naturalmente, della Iene, figlia della legge elettorale. Le dico subito che non sono d'accordo, perché non c'entra niente la legge elettorale con l'ignoranza dei politici, in questo caso su alcuni temi. Luca da Prato, buonasera. Buonasera, dottore. Dica. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. La mia riflessione era sulla crisi finanziaria. Io ho una laurea in scienze bancarie e nei manuali di testo, quando studiavamo da giovane, ci insegnavano che per un sistema bancario nazionale e internazionale la cosa fondamentale è la fiducia dei correntisti, dei risparmiatori, di coloro che sono sempre a contatto con il mercato. Questa fiducia è frutto molto di come i mass media rappresentano la realtà dei fatti. Mi sembra che invece di fare un'azione calmieratrice o comunque di non disseminare panico come è stato fatto negli ultimi giorni, ma anche negli ultimi mesi, si inizia telegiornali, i giornali con i titoloni, con le trasmissioni radiofoniche a gettare benzina sul fuoco invece di gettare acqua, e i poveri piccoli risparmiatori corrono a essere rassicurati nelle banche, negli istituti dove hanno mezzi monetari, sì, per capire se sono garantiti o quant'altro. È chiaro che se tutti corriamo verso le banche a richiedere i quattrini, le banche hanno qualche difficoltà a restituirli. Sì, però non sembra che ci sia la corsa da questo punto di vista. Lei dice potrebbe esserci per il modo in cui l'informazione affronta la questione, facendo troppo allarmismo. Insomma, prima di fare tanti interventi, tutti giusti, la riduzione del costo del denaro di oggi, anche il piano americano, pur con i suoi anche elementi negativi che comporta, l'assistenzialismo, forse una copertura a chi ha sbagliato, e questo ne avete anche parlato diverse volte, però dico, più che fare, dovrebbero concentrare l'attenzione anche su una moderazione nelle informazioni che vengono divulgate, secondo me, al mercato e ai risparmiatori. La ringrazio Luca. È un tema certamente importante quello che lei ha toccato, il modo in cui l'informazione può creare anche allarmismo in questi frangenti. Gianluca, allora abbiamo recuperato la linea. Eccomi, il discorso che faccio io è questo: lei pensa che un elettore possa decidere di delegare e di mettere a legiferare una persona che non sa distinguere il presidente della Russia da quello della Georgia? Io penso di no. Penso che con una legge elettorale che blocchi i candidati, l'impossibilità di scegliere, ti ritrovi una persona del genere. Ecco il mio ragionamento sulla legge elettorale. Sull'area Pacis un bambino di terza media, di seconda media, prenderebbe un insufficiente. Noi abbiamo lì un deputato che non sa che cos'è l'area Pacis, ma quello non è nulla. Olmert, per il capo dei laburisti inglesi, come può una persona del genere legiferare in politica estera? Sì, questo è il senso del mio ragionamento. Sì, Gianluca, ripeto, sul fatto che alcuni deputati non sappiano chi è il premier palestinese o non sappiano chi è il presidente russo, certamente è una cosa grave, però non credo che la questione dipenda dalla legge elettorale. Può darsi che con una legge, non credo che con le preferenze cambierebbe la storia. Di questo livello, poi è palese che in questo paese la meritocrazia conta ben poco, perché io penso che di persone con abilità politiche e con conoscenza e con una cultura che ci vuole, se si va in Parlamento, migliori di queste se ne trovino molte. Ecco, se c'è questa gente un motivo ci sarebbe. Io penso che in altri tempi queste persone almeno si sarebbero dovute dimettere, perché è scandaloso. La ringrazio, andiamo a Verona. Marco. Buonasera. Buonasera, dica. Riagganciandomi al tema che esprimeva il precedente ascoltatore, vorrei riportare anche la questione su quello che invece era stato la sua intervista al senatore Guzzanti, che in realtà riprende questo identico discorso che ha fatto due formazioni che secondo me sono estremamente interessanti. La prima, che sicuramente degli altri presenti, mentre lui era schifato da quello che diceva Berlusconi, ce n'erano tanti che invece passavano il tempo ad applaudire e a dare ragione al capo, no? E questo è quello che diceva ma questo non è censurabile di per sé, insomma, Berlusconi parlava, no, ma c'era chi applaudiva. Il problema, mi scusi se la interrompo, sta esattamente nel fatto che meno gli eletti e chi sta in Parlamento sa, e più con il sistema elettorale in cui siamo adesso sono costretti a seguire le indicazioni che dà il capo senza poter discutere. E questo fa sì che con una maggioranza come quella che il cavaliere si è guadagnato, lui si ritrova un bel potere tra le mani, che è il potere dei voti delle persone che non fanno altro che, senza ascoltare quello che dice, fanno quello che indica lui, punto. La seconda cosa relativa all'intervento che ha fatto il senatore Guzzanti è che poi alla fine vorrei capire quanti sono gli elettori del cavaliere che sono d'accordo, che sarebbero d'accordo con questa sua posizione nei confronti di Putin. Ma di questo Berlusconi risponde al corpo elettorale, se la gente sì, non è d'accordo. Sì, ne ha risposto quando? Ma sempre quando ci sono le elezioni, se qualcuno non è d'accordo. Ah, quando ci sono le elezioni. Bisogna rispondere, non è che si possono fare continuamente elezioni, oppure non è che si può indurre un referendum sulle posizioni di Berlusconi intorno a Putin. Insomma, è stato eletto un governo con un Parlamento in cui Berlusconi ha delle posizioni su Putin che erano abbastanza note anche prima, non è che sia una novità dall'aprile del 2008 in poi, l'amicizia personale tra Berlusconi e Putin, e poi l'Italia giudicherà. E visto solo l'ultima sì, riflessione, prego. Visto che lei parla di Parlamento, allora sì, come la mettiamo con il fatto che Berlusconi in questo periodo sembra, sia nel modo di operare dal punto di vista tecnico, parlo dei decreti legge, sia nel modo di trattare, di rapportarsi con l'opposizione in un momento come questo qui, invece del Parlamento se ne sta strafregando, mantenendo quello che è la sua posizione nei confronti dell'opposizione come di una posizione estremamente indifferente. Lui sta operando con il governo e con la maggioranza che gli ha dato il popolo, perché la democrazia nella quale viviamo gli permette di avere la maggioranza dei voti in Parlamento, punto. È vero o no questa cosa? Sì, Marco, cosa vuole dire con questo? Lei ha fatto una valutazione politica. Secondo lei Berlusconi se ne sta fregando del Parlamento, non parla con l'opposizione. È un'interpretazione legittima di quello che sta accadendo. Secondo me non è l'interpretazione corretta, ma questa è una mia opinione, naturalmente. Guardi, da che mondo è mondo, tutte le opposizioni, anche Berlusconi quando era l'opposizione, protestano sempre per il Parlamento che viene trattato male, perché i governi fanno troppi decreti, non lasciano discutere, eccetera, eccetera. E c'è il rischio dell'occupazione del potere, non ci coinvolgono, dobbiamo ascoltare, non ascoltano l'opposizione. Tutte le opposizioni in Italia dal 92-94 in poi hanno utilizzato questi argomenti. Mi sembra che la consistenza di questi argomenti sia piuttosto fragile, però questa è la mia impressione, ma non perché adesso al governo ci sia Berlusconi o Veltroni, perché ripeto, tutte le opposizioni erano gli stessi discorsi che Berlusconi faceva quando era l'opposizione, o sbaglio, Marco? Però quando Berlusconi era l'opposizione, la maggioranza non aveva mai, anzi il governo non aveva mai utilizzato in maniera così estesa il decreto legge. Ma guarda, non riesco a fare una discussione intorno all'uso del decreto legge. C'è il Presidente della Repubblica che vigila, ci sono le norme, non mi pare un problema francamente rilevante, però ognuno, lei pensa che sia un problema rilevante e lo dice, va bene. Poi lo c'è... pensa anche Napolitano, eh? Sì, è un problema rilevante. E appunto, c'è il Presidente della Repubblica che vigila, che eventualmente frena sull'uso del decreto, della fiducia, eccetera, eccetera, e non c'è problema. Perché allarmarsi, come dire, no? Lei sa meglio di me che il Presidente della Repubblica può frenare, può rallentare, ma non ha poteri sufficienti per potersi opporre a questa cosa. E finché Berlusconi lavora così, con una maggioranza di questo tipo, senza andare in Parlamento a discutere, specialmente in un momento come questo qua, secondo me sta operando in maniera molto, molto negativa. Questo è il suo giudizio, va benissimo. Domani Tremonti è in Parlamento, su questa vicenda qui. A dire quello che fa lui e basta. Beh, che deve dire quello che fa Veltroni, mi scusi? A discutere con il Parlamento, non a dire quello che si riferisce al Parlamento e poi guardi che c'è una discussione in Parlamento domani, non è che parla Tremonti e poi si chiude il Parlamento con le spranghe, parla Tremonti e poi c'è una discussione, risponderà a Tremonti, insomma, vita parlamentare normale, normalità di vita parlamentare, insomma. Non mi sembra che ci sia qualcosa di scandaloso, poi se vogliamo trovare qualcosa di scandaloso pure in questo, troviamolo, va bene. Marco, la ringrazio molto. Buona serata. 19:45 800 24 0024. Andiamo a Parma, Andrea. Buonasera. Buonasera. Mamma mia, ancora a parlare di Berlusconi. Tutte le sere c'è qualcuno che ha da dire su Berlusconi. No, ma per carità, va benissimo. No, io non sono berlusconiano, anzi, devo apprezzare che in un momento veramente drammatico come quello che stiamo vivendo c'è un comportamento, secondo me, anche di Veltroni, molto maturo, molto da paese anglosassone, perché effettivamente si sono resi conto che c'è una situazione enormemente preoccupante e grave. E proprio alla luce di questo invece trovo un po' scomposta, come al solito, delle reazioni in Italia. Crolla il mondo e ad esempio la CGIL, dopo aver fatto il disastro in trattativa all'Italia, adesso l'unico problema della CGIL qual è? La riforma Gelmini, cioè blocchiamo l'Italia perché la riforma della scuola non ci piace. Io dico che la gravità del momento richiede un atteggiamento molto più maturo, molto più evoluto, molto meno fazioso. Io capisco che la CGIL il giorno che non c'è più la lotta sociale perdono il lavoro, però non possono smaccatamente comportarsi in questo modo, cioè inconsapevoli, in modo fazioso di una situazione, come ripeto, molto grave, che richiede un comportamento maturo, totalmente onesto, da parte di tutte, all'interno della società. Quindi è giusto in questo momento privilegiare il coinvolgimento della Confindustria, ad esempio, perché la risoluzione dei problemi passa anche dal mantenere saldo il nostro sistema produttivo. Adesso tutti si ricordano dei piccoli e medi imprenditori, speriamo che l'Italia possa continuare ad esprimere la media e piccola imprenditoria, però questo passa anche dalla scelta di creare un clima costruttivo, non che dopo aver fatto queste bellissime dichiarazioni alla fine ci sia sempre una conflittualità strisciante solo perché una parte di sindacato deve mantenersi il proprio posto di lavoro. Sono cambiati i tempi, cioè, se non ce ne rendiamo conto qui rimaniamo schiacciati da una situazione, ripeto, internazionale, che è preoccupante. Io sono un dipendente di un'azienda che lavora all'estero nei beni di consumo. In questi giorni i clienti da tutto il mondo stanno revocando gli ordini. Questi sono, secondo me, dei problemi. al quale bisogna segnalare i sindacati, perché tra qualche tempo non ci sarà soltanto il problema della riforma Gelmini o del grembiule dei bambini a scuola del maestro unico, ci sarà il problema di tenere in piedi le aziende. Se le aziende chiudono, io perdo il lavoro e come me tanti altri dipendenti, e questo non è che non lo si capisca, non lo si vuole capire. Andrea, la ringrazio molto, molto efficace il suo intervento, condivido in pieno. Abbiamo in linea Guido dalla provincia di Bologna, Luigi da Venezia e altri ancora. Domani esce un libro che è molto attuale per quelle discussioni che stiamo facendo da qualche giorno, per i temi di attualità. Il titolo colpisce, un titolo urticante: La paga dei padroni, banchieri, manager, imprenditori, come e quanto guadagnano i protagonisti del capitalismo all'italiana. Gli autori sono Giorgio Meletti e Gianni Dragoni, che ha inviato del Sole 24 Ore, che ringrazio. Buonasera. Ciao Gianni. Sì. Mi senti? Sì. Eccoci qui. Allora, leggendo le prime righe dell'introduzione, diciamo, voi l'avete chiamata istruzioni per l'uso, le leggo perché sono significative. 9.426.000 euro è quanto la banca Unicredit ha dato come compenso per il 2007 all'amministratore delegato Profumo. Non sorprende che il 51enne banchiere genovese sia stato il manager italiano più pagato dell'anno. In poco tempo ha fatto del vecchio Credito Italiano una delle più forti e innovative banche d'Europa e si è conquistato sul campo un'eccellente reputazione professionale. Profumo ha guadagnato oltre 25.000 euro al giorno. Secondo l'IRES, cioè il centro studi della CGIA, nel 2007 i lavoratori dipendenti italiani hanno percepito in media 24.890 euro lordi. Nel 2007 i profitti del gruppo Unicredit sono cresciuti del 9%, il dividendo distribuito agli azionisti dell'8%, mentre il valore di mercato delle azioni è sceso del 17%, senza contare, naturalmente, perché il libro è stato scritto qualche mese fa, degli ultimi eventi. La retribuzione di Profumo è invece aumentata del 39%. Perché avete iniziato questo libro con l'esempio Profumo, senza sapere quello che sarebbe successo, immagino? No, certamente non avevamo previsto questa crisi per dare più evidenza a questi problemi. E abbiamo cominciato da Profumo perché il suo stipendio nel 2007 è stato il più alto tra gli amministratori di società quotate, in questo caso una banca in Italia, escludendo le voci straordinarie come le indennità, che pure sono state elevate per altri banchieri, a cominciare ad esempio da Matteo Alpe, l'ex amministratore di Capitalia, che in 5 mesi, è uscito il 31 maggio 2007, ha ricevuto 31 milioni di euro, cioè quasi 60 miliardi di vecchie lire di buona uscita, e in totale ha ricevuto per 5 mesi 37 milioni di euro. Quindi siamo partiti da Profumo perché sarebbe lo stipendio ordinario, non per un paracadute o un TFR, sì, certo, speciale. Ecco, voglio capire, siccome conoscendoti non credo che hai scritto un libro populista perché la gente prende i forconi e cominci l'assalto ai manager delle aziende, qual è il problema di questa paga dei padroni che evidentemente negli ultimi anni è cresciuta in maniera esponenziale? Qual è il danno di questa paga, eccessiva, chiamiamola così? Intanto ti ringrazio per quello che hai sottolineato, perché ad esempio oggi è uscito un commento, un'analisi sul Sole 24 Ore di Giulio Sapelli, il quale invece dice, taccia me e il coautore Giorgio Meletti, che lavora alla 7, mi piace salutarlo, sì, ricordarlo, sì, di populismo, ma non ne capisco le ragioni, senza parlare del libro. Quindi forse ci sarà modo magari di confrontarsi ulteriormente anche col professor Sapelli, le cui idee io rispetto, ma non capisco perché abbia rivolto queste accuse con un tono anche piuttosto pesante. Il problema che noi solleviamo comunque non è quello di sostenere, come qualcuno vicino, diciamo, a questo mondo degli imprenditori, dei manager, delle società quotate può tentare di accreditare facilmente, che la paga di per sé è troppo alta. Certo sono stipendi stellari, comunque li vediamo, ma noi rileviamo che spesso questi stipendi molto elevati non sono giustificati dai risultati, né sono chiari agli azionisti nel loro complesso, perché parliamo per lo più di società quotate in borsa, in cui quindi il cosiddetto socio di riferimento o padrone possiede solo una parte, spesso sì, anche solo sì, minoritaria, e mentre i piccoli azionisti, che sono la maggioranza, come nel caso ad esempio dell'Unicredit, come nel caso dell'Enel, dell'Eni o di Banca Intesa o della Telecom o della Pirelli, dove ci sono stati altri casi di stipendi molto elevati, non hanno alcuna possibilità di incidere, e quindi non è chiaro qual è il criterio in base al quale vengono dati stipendi da 4, 5, 6 milioni di euro, 9 milioni, oppure delle buone uscite molto alte rispetto ai risultati. Non è, che non, è chiaro, non, è, non è chiaro cosa significa, invece voi cercate di spiegarlo. Sì, non è stabilito preventivamente, ad esempio l'assemblea degli azionisti per questa società non viene informata, non viene sottoposto preventivamente a un pubblico dibattito, viene tra gli azionisti che sono coloro competenti a decidere, perché questo è il mercato finanziario. Sì. Allora ad esempio non viene detto se quest'anno la società raggiungerà un utile di 100 e il dividendo, perché poi i piccoli azionisti vengono remunerati oltre che con la borsa che sale se vendono le azioni, ma solo se le vendono, loro vengono remunerati solo con la cedola normalmente. Allora non viene detto chiaramente a tutti in assemblea se il risultato è 100, l'amministratore delegato e la prima linea, perché poi c'è anche la prima linea di dirigenti, può ricevere un premio, il cosiddetto bonus, che è di 1, 2, 3 milioni di euro. Tutto questo viene deciso nel chiuso di un consiglio di amministrazione dove i piccoli azionisti non hanno neanche, diciamo, la possibilità di, non dico di farsi sentire, ma di sollevare un interrogativo. E poi consigli di amministrazione che spesso, non in tutte le società, contengono degli intrecci tra le società che compongono, diciamo, il ristretto capitalismo italiano. Non è così per tutti, ma è così in molti casi. Oppure per le banche ci sono le fondazioni, che sono degli organismi, ad esempio per Unicredit, autoreferenziali, e quindi c'è un problema di trasparenza e di scarsa informazione soprattutto. Assolutamente, e credo che la trasparenza e la scarsa informazione siano un po' sia un po' il filo che accompagna questa vostra descrizione, e insieme alla descrizione di una nuova oligarchia, e questa è l'altra spiegazione, cioè i super stipendi, come scrivete, sono la manifestazione di un nuovo potere economico. Ne parlerei a lungo, ma per questa sera abbiamo i titoli dei TG che incombono, la paga dei padroni. Ciao Gianni, buona serata. Ciao, grazie. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 19:58 in questo momento, 800 24 00 24. Abbiamo diversi ascoltatori in linea. Intanto questa sera a Matrix il ministro delle pari opportunità Carfagna, ospite unico, già si è scatenata contro Sabina Guzzanti, a proposito della vicenda di Piazza Navona, dicendo: sembra fragile anche mentalmente, sono pronta a ritirare la querela se lei scrivesse due righe di scuse, ma credo che non lo farà. Ha costruito un pezzo della sua carriera sull'insulto. Queste le frasi della Carfagna su Sabina Guzzanti questa sera a Matrix. Intanto dovrebbe partire il TG1, eccolo qua, partito. Borse a picco malgrado lo storico taglio concordato dei tassi. In Europa e negli Stati Uniti costo del denaro giù di mezzo punto. Fondo Monetario Internazionale, la peggior crisi del 1930 per l'Italia, PIL in calo nel 2008 e 2009. Consiglio dei Ministri straordinario a Palazzo Chigi per garantire banche e risparmiatori. Tremonti a colloquio da Napolitano. Gli immigrati, risorsa o problema? Da stasera parte l'inchiesta del TG1 dopo gli episodi di intolleranza. Chiamparino, attenti ai polveroni. Roberto Baggio alla partita per i fondi contro la SLA, parla al TG1, Borgonovo vuol salvare tutti gli altri malati. A passeggio tra le torri gemelle di New York, la storia dell'acrobata Philippe Thi, in un documentario che sarà presentato al Festival del Film di Roma. E questo è il TG1. Andiamo a sentire Giacomo. Dica pure, Giacomo, di cosa vuole parlare? Volevo parlare di mercati, della crisi dei mercati, di come i media stanno trattando questa crisi, che secondo me lo stanno facendo in un modo un po' superficiale. Lo diceva un ascoltatore anche pochi minuti fa. E sono d'accordo con quello che ha detto. Senso superficiale? Mi spieghi. Perché ad esempio due settimane fa il fallimento della Lehman Brothers, che mi sembrava un passaggio abbastanza importante di questa fase, mi sono visto Matrix che in quella serata si è messo a trattare il tema di Striscia la Notizia, quindi un po' mi era tristato. Quando però una settimana dopo ha trattato il tema dell'accentuazione della crisi parlando di 29, allora ho pensato che forse era meglio che ritornassero a parlare di Striscia la Notizia e di politica. Dico questo perché, vabbè, io opero sui mercati, tutti i giorni ci lavoro e anche scrivo. Sì. Continuano a dire che ci sarà il 29 e non vorrei che a forza di dirlo, insomma, questo 29 arrivasse, perché l'economia e la finanza è anche psicologia. Cioè lei sta dicendo che i media fanno troppo allarmismo su tutte le questioni e dunque esatto. Creano panico, però io questo panico almeno in Italia fino adesso non l'ho visto, no, a livello di banche, cioè non è che la gente corre a prendere i depositi e mette i soldi sotto il materasso. Poi ci sono le vendite in borsa, perché naturalmente anche Milano cala, però insomma non, dal punto di vista di andare in banca, prendere i soldi e metterli nel materasso, fino adesso niente in Italia, almeno così sembra. Fortunatamente allora diciamo che i risparmiatori hanno i nervi saldi in quello, però appunto vorrei dire che sarebbe meglio insomma fare un po' di educazione al sistema finanziario piuttosto che invece fare propaganda, perché mi sembra molta propaganda. Dal mio punto di vista cioè per ora è solo una crisi, non è né una crisi del credito né una crisi economica, anche se l'economia ne soffrirà. La crisi è solo di fiducia, e sarebbe importante dirlo, perché le banche non si fidano l'una dell'altra. E anche oggi abbiamo visto che hanno tagliato i tassi ed è stata finalmente la mossa dei pompieri internazionali che hanno buttato un po' di acqua sul fuoco. Vediamo che i tassi interbancari e quelli relativi ai mutui, quindi che la gente vede nella realtà quotidiana, continuano a salire. Questo perché c'è questo contagio della crisi di fiducia. Io banca non mi fido di cosa ha l'altra banca, e quindi per prestare il denaro chiedo un tasso maggiore. Certo, certo. Facendo l'esempio di due persone al bar, diciamo che per chiedere un caffè il barista non chiede mai se ha l'euro. In questo momento ci troviamo proprio in quella situazione in cui io chiedo il caffè e il barista mi chiede prima se ho l'euro per pagarlo. Questa non è male. Giacomo, la ringrazio molto di questo intervento. 23 minuti, se abbiamo TG5 mandiamo i titoli. A Palazzo Chigi, Consiglio dei Ministri straordinario, sul tavolo misure per dare stabilità alle banche e difendere i risparmi. Veltroni, pronti a collaborare. Borse ancora a picco nonostante il taglio del costo del denaro deciso dalle banche centrali di tutto il mondo. In Europa, Milano la peggiore, a meno 5,7%, in altalena Wall Street. Al processo per l'omicidio di Giovanna Reggiani, la difesa del romeno Mailat passa all'attacco, la donna aggredita da almeno 4 o 5 persone. Segregata in casa dal marito per 50 anni, vittima una pensionata della Val di Non, le era vietato anche guardare la TV. Troppo bravo per stare a casa, a Lecco il segretario comunale è andato in pensione, riassunto gratis. Per me è un onore, dice, e non mi pesa. E l'attrice 42enne Holberry, la donna più sexy dell'anno, secondo la rivista Esquire. Lei ironizza, vi siete accorti di me solo adesso? Va bene, con questo titolo conclusivo del TG5. Vediamo un po' che sta combinando Blob. Per cortesia, su, si sottopongo. Ma pianta, dai. Vediamo, per cortesia. Stai tranquillo. Puoi seguire questo conto, però non mi devi mettere le mani addosso. Cazzeggia quanto ti pare, ma non mi mettere le mani addosso, e questo non te lo permetto. Ciao, Ines. Sei bene. Era Rutelli alle prese con uno delle Iene, credo, a Capalbio quest'estate. Il primo, naturalmente, che avete sentito. Guido, provincia di Bologna. Buonasera, Guido. Buonasera, salve, Cusciani. Prego, prego, dica. Senta, io per dire uno slogan, cioè, il simbolo di tutto questo qui succede in Italia, il simbolo per me è Tremonti, il campione della creatività, degli svaffertolizzazioni, derivati, l'inventore. Ma adesso, ecco. L'inventore dei derivati non credo proprio, insomma, della finanza creativa. Il campione creativo. Sì, ma non mi pare sia il creatore dei derivati. No, ma capisci, non il responsabile, sto finendo la batteria. No, capito. Non il responsabile, ma vede, io ascolto sempre la vostra radio e ho fatto una cultura con Barisoni, mi sembra che potrei andare all'università a dare un esame, secondo me lo fa. Bene, bene. Allora? Allora, due anni fa, non nell'ultima campagna elettorale, nella precedente, il ministro Tremonti, era una vostra trasmissione, se avete anche in registrazione potete sentirlo, aveva un grande piano, non so per che cosa, per i fondi, i piani case, i piani demanio, tutto un marchingegno che Barisoni per due volte dice, scusi ministro, io non l'ho capito. Barisoni, che è il vostro campione, non aveva capito il piano del ministro Tremonti. Lei si rende conto? è il campione del mondo in creatività. Qui ci sono tanti campioni, Guido. Sì, è il campione. No. Capisco che a lei gli piaccia molto Tremonti, però. No, a me non piace, guardi, non ho nessuna passione per nessuno in particolare, soprattutto per i politici. Il punto qual è? Lei dice che Tremonti prima era uno di quelli, la finanza creativa, eccetera, eccetera, adesso ha cambiato idea, questo lei vuole dire? Prima era uno che costruiva tutti i castelli, sì. Castelli per vari clienti, grossi anche, poi è passato dall'altra parte adesso ha fatto un salto, però l'immagine, io ho degli amici, sono di centro-sinistra, lo dico subito, ho degli amici di centro-destra che sono così, ma adesso c'è Tremonti, ci pensa lui a fare... E invece purtroppo non ci pensa lui, ci pensiamo tutti, ecco. Ci pensa lui, sa, in questi casi un governo, come quello italiano non è che possa fare capito? Perché non ho piacere che Cavalcanti, che sia il campione dall'altra parte adesso, mi dispiace, ecco. Cioè dell'intervento statale, lei dice. Ma l'intervento statale, ma prima lui ha creato tutti i marchingegni e adesso quando era un ragazzino, poi lo lasci andare. Sì, no, andavamo prego, al bar, giocavamo a carte, alla fine segnavamo e noi pensavamo di essere dei campioni perché non pagavamo mai. Alla fine poi la barista ci ha fatto il conto, capito? Grazie Guido. Siete i numeri uno nella grazie, radio. Grazie. C'è solo quei due che fanno la musica e non mi piace, gli altri siete i numeri uno. grazie. Bene, 20:10 in questo momento, 800-24-0024, i titoli della 7. Crisi globale, Fed e BCE concordano il taglio di mezzo punto dei tassi di interesse, ma le borse crollano lo stesso, Wall Street parte in rosso, impicchiata tutte le piazze europee, Milano chiude a meno 5-7%, in profondo rosso i titoli delle due più grandi banche italiane, Unicredit meno 13,3%, Intesa meno 9,3%. In Italia riunione straordinaria del governo Berlusconi per varare un decreto che prevede la garanzia illimitata dei depositi bancari e sostegno agli istituti di credito. In Gran Bretagna Brown stanzia fondi e annuncia l'ingresso dello Stato nel capitale di 8 banche. Obama vince il secondo match televisivo con McCain. La colpa della crisi globale è vostra, accusa il senatore democratico e nei sondaggi stacca il candidato repubblicano. Il 35enne capitano Cannavaro suona la carica agli azzurri, largo ai giovani Pepe e Rossi che sono forti, ma promette giocherò a lungo. In Italia non nascono più difensori, non ho eredi, mi sento un ragazzino. Bene, andiamo a Modena. Massimo, buonasera. Mi sente? Sì, la sento. Prego. Io sono rimasto molto colpito nell'ascoltare oggi per ben 3 volte, nonostante non tenga sempre acceso la radio, il discorso del pubblico ministero greco al processo di Callisto Tanti. Io mi sento molto a disagio nell'ascoltare le parole del pubblico ministero greco. Com'è possibile che un magistrato parli a braccio di macroeconomia, di massimi sistemi? Lui dovrebbe proporre una pena per chi non ha rispettato la legge. Ma mi scusi Massimo, noi ieri abbiamo fatto ascoltare diverse cose di Greco, come lei sa se ci ascolta, ma oggi non so dove lei le abbia sentite, può darsi in qualche nostra trasmissione. Non sono collegato 24 ore su 24 con Radio 24, dunque non lo so, ma a parte questo, mi sembra che Greco, a parte una discussione sulle regole nella requisitoria dell'altro giorno, diciamo estranea se vogliamo all'altre della vicenda processuale, abbia parlato soprattutto della questione di Tanzi, insomma di cose che riguardano il processo, le banche, il ruolo, dov'è in che modo è uscito fuori dal seminato secondo lei, scusi? Perché ha parlato della situazione attuale legandosi alla macroeconomia mondiale e a questa situazione particolarmente grave in cui ci troviamo, legando tutto questo al processo Tanti, cercando di fare una piccola lezione di economia globale. Io mi dico che questo non è il ruolo di un magistrato e non bisognerebbe dare spazio a questa deformante idea del ruolo della magistratura, nonostante io reputi che la pena che è stata richiesta per Callisto Tanti sia più che corretta, anzi secondo me andrebbe ulteriormente intensificata, ma com'è possibile che un magistrato si metta a parlare a destra e a sinistra della situazione attuale della Lehman Brothers? Di solito sono molto attento a queste cose, si figuri se non se non rileviamo delle anomalie da questo punto di vista, cioè su quello che dicono i magistrati. Mi pare, avendo ascoltato, seppur in modo sommario, sono credo 3 ore di requisitoria, da quello che ho letto non mi pare che Greco sia andato al di là dei suoi compiti. Poi sa, in una requisitoria si dicono tante cose, dunque evidentemente si fanno anche delle considerazioni sull'attualità, però non mi pare, ecco, che di aver visto un, o di aver sentito un PM Greco che voleva fare un altro mestiere, quello dell'analista internazionale. Si parlava del processo, il quale è sintomatico di certe cose. La ringrazio, Massimo. Mario, Reggio Emilia. Ah, buonasera. Complimenti per la trasmissione e grazie di aver dato voce ai cittadini, perché sono importanti queste trasmissioni proprio per quello. Quello facciamo. Ecco, io volevo solo esprimere un mio punto di vista, diciamo, non so se poi è condiviso da altri o meno. Cioè, vediamo. In tutto questo bailame qui di quello che sta succedendo sui mercati finanziari e soprattutto nel portafoglio di tanti risparmiatori, tanti pensionati, tanta gente che ha accumulato dei soldi, li hanno affidati incautamente delle banche, delle cose. Vabbè, lasciamo perdere. A me mi piacerebbe vedere in questi giorni magari una bella processione di funzionari di tutti questi istituti che avrebbero dovuto controllare, diciamo, tutte le banche, le finanziarie, eccetera, e che invece non l'hanno fatto. Quindi a me piacerebbe vedere tutti diciamo, questi funzionari uscire con dei bei scatoloni come hanno fatto quelli della Lehman Brothers, prendersi la loro robina e andarsene fuori dalle balle, perché io non ho visto nessuno ancora che ha preso il suo scatolone e si è andato via volontariamente, cioè non si è dimesso nessuno. Lei di cosa sta parlando con riferimento all'Italia, perché sennò non capisco. È evidente che ci sono stati degli scandali nel passato e qualcuno sta pagando, anche se all'italiana, come sappiamo. Cosa vorrebbe lei adesso? Chi è che dovrebbe fare gli scatoloni e andare via? Non capisco. Ad esempio, abbiamo creato la Consob, abbiamo creato Banca Italia, abbiamo creato l'ISVAP. Allora, io in questi giorni mi sono reso conto che l'ISVAP è costituita, dovrebbe essere un organismo che controlla l'operato delle compagnie d'assicurazione, ma questo organismo è composto proprio dalle compagnie d'assicurazione. È come se noi nelle nostre carceri mettessimo, invece dei secondini, delle guardie giurate, mettessimo a controllare gli stessi detenuti. Ecco, questa è la sì, però Mario, adesso stiamo parlando di altre cose, lei fa degli esempi, Consob, ISVAP, Banca d'Italia, cioè lei dice i regolatori. Lasciando perdere gli esempi, i regolatori non funzionano. Questo è un argomento serio che si può affrontare, quello delle autorità di controllo. Non c'è dubbio che andrebbero rafforzate. I controllori però, che non controllano. Sì, però è un discorso che non è relativo solamente all'Italia. La ringrazio, Mario. C'è il traffico alle 20:16. No, non c'è il traffico. Allora proseguiamo con Giorgio da Modena. Giorgio, pronto? Dica. Pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Io faccio un intervento di un secondo. Tutti quelli che parlano, a cominciare anche da Veltroni ieri sera, del fatto che il governo usa i decreti legge per saltare il Parlamento, hanno pensato che un decreto legge entro 90 giorni deve essere convertito in legge dal Parlamento, altrimenti non entra in funzione per quel periodo. Guardi, io Giorgio non l'ho nemmeno ricordato, perché non è il caso di ricordarlo. Poi tutti quanti ogni volta chiediamo maggiore velocità nelle decisioni, eccetera, appunto, eccetera. Che vuole quello fare? Che dico io. Allora, perché cioè, al limite quello che come me che telefona può essere fra virgolette ignorante, perché io so questa cosa, ma non ne so tante altre. Ma i politici, che io ho sentito Veltroni ieri sera a Ballarò, così tirar fuori questa storia del saltare il Parlamento mi sembra talmente assurdo che ho voluto dirlo. La ringrazio, Giorgio. Andiamo a sentire Walter, provincia di Firenze. Buonasera, Walter. Buonasera a voi. Dica pure. Io vorrei parlare di scuola. Parli pure. Io sono molto amareggiato, molto deluso dalla discussione evitata in Parlamento, che è il luogo dove invece tutte le categorie sociali si possono incontrare, dove tutti i provvedimenti si possono migliorare. Questo governo invece ha posto la questione di fiducia fregandosene di tutte le grandi assemblee, le discussioni, le istanze, i miglioramenti che possono venire quando si vuol prendere un provvedimento che deve migliorare o riformare la scuola. Non è il grembiulino che può migliorare la scuola, non è il 5 in condotta che può fermare il bullismo e il disagio, non sono le centinaia di migliaia di licenziamenti, di mancate assunzioni che possono migliorare la scuola o mantenere la scuola a questo livello. Le ricordo che la scuola primaria, detta di molte organizzazioni internazionali, è una delle migliori nel mondo. Quindi si vuole sfasciare la scuola, si vuole sfasciare soprattutto la scuola pubblica per dare in pasto a interessi privati, creando una situazione di corsa a loro probabilmente. Guardi, così come Walter, si vuole sfasciare lo Stato sociale. Io credo che non sia questa l'analisi di sfascio, si vuole sfasciare la scuola, si vuole sfasciare lo Stato sociale, non credo proprio che la situazione sia questa, più che altro Giuseppe Bertagna oggi, che è un pedagogista, è stato architetto della riforma scolastica Moratti, in un'intervista alla Stampa dice che la Gelmini naviga a vista come Fioroni, non sono grandi riforme, c'è un atteggiamento solamente ragionieristico e qui non si entra nel merito dei tagli, ma semplicemente della struttura generale della riforma, dice, beh, insomma, si naviga a vista, non mi sembrano grandissime riforme che stravolgono e rivoluzionano la scuola italiana, mi sembra più questo lo sfascio, un'altra cosa. Bene, 20 e 21, 800 24 00 24 per chiamarci, accavallamento di rumori e suoni tra telefoni che cadono eccetera eccetera, sigle che si intersecano con altre cose. Andiamo a sentire Marco Menduni, che è giornalista del Secolo XIX. Buonasera. Buonasera, buonasera. Eccoci a tutti. Qui. Allora, qualche difficoltà mi sembra ce l'abbia un consigliere regionale della Liguria. Ieri ce lo segnalava anche un ascoltatore ligure molto attento. Parlate del caso Broglia, Fabio Broglia, che è un consigliere regionale del Partito Democratico. Esatto. Anzi, ha fatto parte della costituente del PD. Poi, stranamente, in regione è capogruppo, è un capogruppo a turno del gruppo misto, ma questa è un'altra questione. Ci sono tre cose insieme, anzi, questa qua, perché il fatto di essere, di appartenere al gruppo misto dà vantaggi economici. Assolutamente, sì. E il fatto di alcuni pass per disabili che Broglia utilizzerebbe sotto casa sua. Terza cosa, uno si aspetta che un consigliere regionale della Liguria è residente in Liguria, e invece no, è residente in Piemonte, almeno sembra, Broglia, e dunque prende anche una diaria per il trasferimento. Ci sono tante cose, raccontacele. Sì, è una storia molto complessa che io vi riassumo in maniera molto cronistica, come abbiamo fatto in quest'ultimo periodo. La prima questione è quella del doppio pass disabili. Esiste una Sestri Levante, paese della Riviera, che credo che tutti conoscano, delle fotografie che dimostrerebbero, o in ogni caso fanno notare, che due distinti pass per disabili, ma con lo stesso numero, sono esposti su due automobili. Chi le ha scattate dice nello stesso momento. Vengono fatti gli accertamenti, ma noi facciamo la prova più semplice. Ci è venuto in possesso di queste foto, vediamo a chi appartengono le macchine su cui sono esposti questi talloncini. Sono una del consigliere regionale Fabio Broglia e l'altra della mamma, che ha diritto al pass per disabili. Verrebbe da pensare che lui ha fatto la fotocopia del pass della madre e lo utilizzi per sé, questo viene da pensare. Verrebbe spontaneo pensarlo. Lui che dice? Noi facciamo semplicemente una domanda molto cortese al consigliere Broglia, chiedendoci di spiegare perché esistono queste foto, perché apparentemente ci siano due pass, e lui esplode minacciando querele e sfidando il giornale, diciamo, vediamo che cosa pubblicate, vediamo cosa pubblicate, poi vi difenderete nelle sedi più opportune. Noi pubblichiamo queste due foto e rifacciamo esattamente la stessa identica domanda, la reazione è l'inizio interminabile di una serie di comunicati di stampa del consigliere Broglia. Più noi andiamo avanti nella nostra inchiesta e continuiamo a ripetere con estrema pacatezza la stessa domanda, più lui aggiunge elementi in cui per appunto minaccia querele. Senza dare però una risposta. Senza mai dare una risposta a questa. Nel merito. E certo, parlando di complotto politico e suoi danni, interrogando addirittura il presidente del Consiglio regionale, chiedendo di identificare chi ha scattato le fotografie, che mi sembra una richiesta un po' curiosa oggettivamente. Sì, tra l'altro, come se il Secolo XIX fosse un organo dell'opposizione al Consiglio regionale della Liguria, che non mi risulta, sì, insomma. Sì, sì, ma come se oltretutto il presidente del Consiglio regionale avesse, come posso dire, i poteri inquirenti per andare a trovare chi ha scattato. Ma a parte questo, poi c'è la storia della residenza. Poi c'è la storia della residenza, noi andiamo avanti e proprio dai documenti in cui vediamo che la macchina appartiene al consigliere Broglia, notiamo che lui appare residente a Casale Monferrato. Questo facendo un controllo fra i documenti della regione. Allora, il presupposto è che tutti sanno che Broglia abita a Sesto Levante, vicino a Genova, in casa della madre, da lì al suo studio, lì alla sua attività. Nello stesso sito della regione c'è scritto tranquillamente vive e opera nel Tiguglio. Sì. Noi però notiamo che, avendo lui fissato la residenza lì dove ha un piccolo studio professionale, gode di un rimborso spese nettamente maggiorato di quasi 1200 euro al mese in più rispetto al movimento che quotidianamente, all'itinerario che quotidianamente percorre. Realmente chiediamo conto anche di questa vicenda. Lui risponde con l'ennesimo comunicato stampa in cui fa notare, in maniera, dice, un'argomentazione che per un cittadino normale è veramente un po' forse stravagante, fa notare che esiste una differenza fra residenza, domicilio e dimora che riguarda quella di Sesto. Ma insomma, dove risiede ufficialmente? Lui è a Sesto Levante, lui sta a Sesto Levante in casa della madre, però questa, avendo fissato la sua residenza, avendo dichiarato alla regione di avere una residenza che effettivamente ha, non ha mai trasferito a Casale Monferrato, gode di un rimborso. Però, non si possono avere due residenze, cioè la residenza vera, la residenza quella ufficiale qual è? Lui ha dichiarato che risiede a Casale Monferrato alla regione, è per questo che ottiene un rimborso in più, pur essendo ufficiale residente. No, è diverso. Lui ha fissato la sua residenza a Casale Monferrato, dove in realtà non abita, noi siamo andati a controllare, però la sua residenza ce l'ha e lui sostiene di avere la dimora in casa della madre. Questo, il fatto di avere la residenza ufficiale a Casale, dove noi siamo anche andati, abbiamo controllato, che non si vede più da anni, non viene mai, però il fatto di avere comunque mantenuto la residenza lì gli fa godere di questo benefit supplementare di circa 1200 euro al mese. E poi ci sono 867,24 per la questione del capogruppo, pur essendo uno che ha, diciamo così, fondato il Partito Democratico Liguria, uno dei fondatori. Assolutamente, ha avuto una storia politica molto, molto avventurosa, però gli è stato in vari schieramenti politici, sicuramente democristiano di origine, è stato nel CCD, poi nell'UDC, poi in un'altra formazione politica locale. Ma perché si è iscritto al gruppo misto? E si è iscritto al gruppo misto perché lui è stato eletto ancora come appartenente a questa sorta di lista che fa capo a successivamente ha deciso di aderire al PD, ha fatto parte della Costituente, ma non, in regione non si è mai riunito al gruppo del Partito Democratico. E quindi, perché chi è iscritto al gruppo misto, comunque chi è capogruppo, prende 867,24 euro netti al mese in più? Qual è il marchingegno? Il marchingegno è che lui rimanendo nel gruppo misto, io non so se sia questo il suo scopo, ovviamente. No, certo. L'effetto è quello. Ma sicuramente l'effetto è che lui rimanendo capogruppo nel gruppo misto gode di una maggiorazione ulteriore della sua diaria, questa volta del suo compenso, di 863 euro al mese. Bene. Siamo quasi a 2000. grazie Marco. Posso dare una novità? Come no, certo. Volante, c'è una novità, ne approfitto anche per parlare un po' del mio giornale, perché oggi a questo punto lo posso dire, dopo giorni di polemiche velenose, il consigliere regionale Broglia oggi si è presentato alla redazione del giornale chiedendo di essere ricevuto e ha dato un'ampia intervista in cui lui, dal suo punto di vista, ammette di aver sbagliato a usare questi toni rispetto alla stampa e si è detto disponibile a spiegare tutto quello che è successo. Poi domani leggeremo. E quindi domani leggerete. Grazie a Marco Menduni. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 20:35, 800 24 00 24, notizia arrivata pochi istanti fa: la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Camera e Senato con i quali si chiedeva l'annullamento delle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte di Appello di Milano sull'interruzione del trattamento che tiene in vita Luana Englaro, che è stato vegetativo dal 92. Dunque sono inammissibili i ricorsi di Camera e Senato. Non so se ci sia ancora qualche altra pendenza giudiziaria da questo punto di vista, però certo la strada è spianata per le volontà del padre di Luana Englaro. Peppino Englaro, un caso ormai diventato famosissimo, titoli del TG2. Consiglio dei ministri straordinario per decidere misure contro la crisi, in cantiere provvedimenti per garantire stabilità di banche e depositi. Domani il governo riferirà alla Camera. Non basta il taglio delle banche centrali del costo del denaro, borse di nuovo tutte a picco, bruciati altri 340 miliardi di euro solo in Europa. Per il Fondo Monetario Internazionale questa è la peggior crisi dal 1930, rallentano le economie mondiali, anche per l'Italia è previsto un calo nel 2008 e 2009. Due bambini sono annegati questa sera in una vasca per l'irrigazione a Marina di Ragusa. I vigili del fuoco intervenuti sul posto stanno cercando di recuperare i corpi. Rifugio di spacciatori e tossicodipendenti. La troupe del TG2 in un hotel abbandonato nel Casertano. Il racconto disperato di italiani e immigrati clandestini. 76 milioni 800 mila euro. Questo l'incredibile jackpot del prossimo Super Enalotto. E sale la febbre da nord a sud. Tutti i segreti del gioco che fa sognare gli italiani. Allora andiamo a sentire Luigi da Venezia, velocemente, perché nell'ultima parte bisogna essere sempre più concisi. Luigi, dica. Velocissimo, dottor Cruciani, velocissimo. Io confronto sempre molto volentieri le mie opinioni con le sue. Mi è piaciuto moltissimo il suo commento sulle astronomiche retribuzioni dei boiardi di Stato, senza alcuna trasparenza, senza che la gente capisca nulla. Ma in realtà non sono boiardi di Stato. Sì. Vabbè, ma insomma, diciamo, ci sono anche quelli, ci sono anche quelli. Ma comunque il tema che io avevo concordato con la sua redazione era Di Pietro e Veltroni. Sì. Il suo commento iniziale, mentre ha riportato e ha fatto ascoltare alcuni brani di quanto dichiarava Veltroni nella trasmissione di Ballarò. Sì. Ecco, io ho sempre apprezzato il suo equilibrio, quindi le chiedo di darmi una risposta col massimo dell'equilibrio possibile. Sì. La domanda è la seguente. Di Pietro oggi interrogava il ministro del rapporto Parlamento sulle candidature, sul problema degli inquisiti, sul problema della candidabilità o meno. Sì. Bene, vicino a Di Pietro c'erano solo i rappresentanti dell'Italia dei Valori, non c'era nessuno del Partito Democratico, eppure Di Pietro stava interrogando il ministro su un tema per il quale il Partito Democratico, il partito di Veltroni, era impegnatissimo durante la campagna elettorale. Come pensa Veltroni di poter dirigere le elezioni se si comporta in questo modo? Grazie. Ah, guardi Luigi, non lo so, francamente. Certamente il tema delle candidature, dei condannati è un tema importante. Non credo che per il leader del Partito Democratico sia un tema fondamentale. Una cosa sono le parole, una cosa sono i fatti, ma al di là di questo, sa, le discussioni parlamentari, question time, anche lì ci sono troppi marchingegni parlamentari, poi è normale che le persone disertino il Parlamento, bisognerebbe concentrare le fasi parlamentari in pochi mesi come si fa in altri paesi. Luigi, la ringrazio, velocemente andiamo. Sergio Milano, buonasera. Buonasera dottore. Intervenivo sulla crisi finanziaria, nel senso che io sono un risparmiatore di generazioni e chiaramente adesso non valgono quasi più niente. Sento soltanto critiche a interventi di banche centrali, controproposte o proposte da tecnici che intervengono da voi non ne ho sentite. Nelle banche non ci si può fidare, perché il caso Parmalat ti insegna che le banche non sono condannate. Quindi io, piccolo risparmiatore, che la fregatura ce l'ho già in borsa, perché chiaramente adesso è l'arena degli speculatori professionali e chi le paga queste speculazioni siamo noi piccoli investitori. Sì, anche se voglio sempre ricordare che gli investimenti, a meno che uno non viene turlupinato in partenza, certo, naturalmente gli investimenti sono sempre un rischio. Ma questo lo corro. Sì. Io non voglio più correre però un altro rischio quando ho la liquidità in banca. Quindi come piccolo risparmiatore, sì, cosa farò domani? Vado in banca e ritiro il mio liquido, perché io della banca non ho bisogno per vivere. Sì, sì, ho bisogno del mio liquido. Ho capito, Sergio. Se io innesto però un processo di questo tipo, sì, saltano tutte le banche. Sì, però c'è una garanzia da questo punto di vista, credo che verrà anche ampliata durante il Consiglio dei Ministri di oggi. C'è una garanzia per i depositi bancari, poi naturalmente ognuno può credere o meno a queste garanzie. Però insomma, da questo punto di vista credo che sarebbe una follia se adesso andassimo in banca a ritirare i soldi per paura, per timore di perderli, ecco. Non è per timore di perderli, e come ha detto il suo ascoltatore di prima, il barista adesso mi chiederà se ho un euro per pagare il caffè. Sì, però lui l'ascoltatore, euro in banca. Certo, l'ascoltatore di prima diceva però c'è un problema di comunicazione da questo punto di vista. Ho estrapolato quella sì, sì, no, ho capito perfettamente. Sergio, la ringrazio. Quindi, la ringrazio. Il liquido mi serve, sì. Il conto in banca non mi serve più. Beh, insomma, su questo si no, può. Ma valuti. Beh, non lo so, secondo me serve ancora. Serve ancora il conto. Questo. Secondo me serve ancora il conto in banca, insomma. Ma per pagare le bollette, non mi sembra, perché le pago. Ma no, ma non è, dove ci riteniamo questi soldi? Sotto il materasso? Sotto il materasso in banca non mi serve neanche l'1%. Appunto. Mi segue? Sì, e sì, ho rischio di perderli. A casa mia me li possono rubare, devo stare più attento. La ringrazio, Sergio. Buona serata. Dove andiamo? Andiamo Claudio da Brescia, velocemente perché siamo davvero in conclusione. Sì, Claudio, sì, dica. Pronto, sì, il mio intervento si ricollega un po' a quello che ho detto prima. Io però sono dall'altra parte, sono un operatore che vende titoli ai risparmiatori e mi trovo in questi giorni gente che ha la sfiducia talmente tanta che la gente ha paura anche a fare i bot. Per cui a questo punto non c'è più fiducia nel fare niente e torniamo a mettere sotto il materasso e torniamo al baratto. Ma chiedono anche il liquido per metterselo sotto il materasso, cioè chiedono i soldi dietro. A un certo punto a me tocca prima di tutto smorzare un po' l'allarme che c'è in questi giorni, che sembra che siccome dicono che fino a 103.000 sono garantiti, oltre no, e tutti quelli che hanno i titoli delle banche, quelli che hanno i titoli corporate di aziende che fino a un anno fa erano tranquille, cosa facciamo? Le svendiamo a 50 del 50% del valore. Allora, sigla, dobbiamo chiudere Claudio, riprendiamo questo discorso domani se vuole, sigla finale, ci sentiamo domani 18:30.